Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Una delle tipiche chiacchiere da Umarell di fronte alle bocce, e quando gli istinti più belluini si scatenano e si sogna l'eccidio, l'omicidio, la strage, l'annientamento etnico dei vicini di casa, dei condomini, delle persone che hanno fatto uno sgarbo, beh, c'è sempre quello che dice: la maniera perfetta per uccidere una persona è metterlo sotto con la macchina. L'omicidio stradale sembra proprio l'omicidio perfetto, sembra che uccidere una persona in automobile in realtà non sia equiparabile a ucciderlo in altre maniere molto più cruente. Su questo una volta abbiamo profondamente riflettuto quanto c'è di vero in questo luogo comune, quanto in realtà è gioco forza, facezia popolare, quanto ci sarebbe da operare dal punto di vista legislativo e normativo. Ci sono momenti particolari in cui le cronache riportano l'emotività generale su alcuni tipi di problemi. Uno in particolare in questo momento è la sicurezza stradale, ma ancor di più è un punto di vista che vorrebbe penalizzare sotto forma di un reato specifico chi compie atti di particolare e colposa non osservanza delle norme stradali, delle norme che richiedono il massimo della lucidità quando si è a bordo di un autoveicolo, e quindi compie degli omicidi. Ancora oggi sui giornali c'è una grande titolazione sul fatto che l'autista dell'autobus svizzero in cui sono morti in un incidente stradale 22 bambini di 12 anni più 4 professori più 2 stessi autisti abbia compiuto un gesto di distrazione distratto da un DVD che stava cambiando. Non c'è certezza in questo, però già è sufficiente per aprire un caso. Quindi c'è un'aggiunta di colpa, non è una distrazione, ma fa un atto non andrebbe fatto mentre si guida. Allo stesso tempo a Milano oggi c'è una tavola rotonda dove si parla di un altro tema che abbiamo trattato nei giorni precedenti, che è la sicurezza dei ciclisti, il diritto dei ciclisti di poter circolare liberamente nelle città senza essere bersaglio agli automobilisti, e di questo si discute. C'è sul Corriere della Sera una tabella che dà le pagelle, le priorità rispetto all'attenzione che hanno gli automobilisti nei confronti dei ciclisti, ma poi ci sono i pedoni, poi ci sono le vittime degli incidenti della strada. Di questo si sta parlando oggi. Una vulgata molto radicalizzata potrebbe essere quella: dice, ma io se volessi uccidere una persona, invece che andarmi a comprare una pistola o un macete, sarebbe più facile che la uccidessi andandogli addosso volontariamente con la macchina, avrei l'impunità. Ecco, cosa c'è dietro questo luogo comune, questa semplificazione? Cosa sta muovendo da un punto di vista normativo, di opinione pubblica, di emotività? Questo è l'argomento di oggi. 800 24 00 24. In Italia ogni anno quasi 5.000 persone perdono la vita in seguito a scontri stradali. Circa 300.000 sono i feriti. Si può stimare che di queste morti, circa 1.500 rientrino nella fattispecie dell'omicidio stradale, di uccisioni causate da qualcuno che si è messo alla guida in stato alterato. Drogarsi, ubriacarsi e poi mettersi alla guida di un'auto in stato semiconfusionale, tanto da non distinguere più la strada, può considerarsi un semplice incidente? O non è piuttosto un atto assolutamente consapevole? In Italia lo scorso anno ci sono stati circa 600 omicidi con arma da fuoco o da taglio, ma uccidere con un mezzo meccanico, camion, auto, moto, ciclomotore, è molto più semplice che uccidere con una pistola. Secondo le analisi, il 30% degli incidenti gravi è associabile all'alcol e oltre l'80% di morti e feriti sono pedoni e motociclisti. Gli incidenti mortali sono causati nell'87% dei casi da adulti con più di 25 anni e l'80% di questi sono maschi. Ripeto il numero 800 24 00 24. Stamattina cercheremo di analizzare questo problema, questo interrogativo che si pongono in primo luogo le persone che hanno avuto un familiare colpito da un incidente stradale, deceduto, ucciso, gravemente menomato da un incidente stradale, e vedono con grande loro rammarico l'autore di questo episodio, magari a piede libero, e si domandano perché non esiste una specifica per cui possa scontare una pena più aspra. Questo probabilmente è lo spirito che ha fatto sì che un gruppo di opinione si può visualizzare attorno al sito www.omicidiostradale.it ha fatto una raccolta di firme, ha raccolto quasi 60.000 firme per una proposta di legge popolare sull'introduzione del reato di omicidio stradale. Abbiamo al telefono Stefano Guarnieri, che è fondatore dell'associazione Lorenzo Guarnieri, quindi promotore anche di questa raccolta di firme. Guarnieri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. È errato dire che in realtà questa proposta nasce da persone che sono state crudamente colpite nella loro sfera personale, degli affetti, da un episodio per cui da loro è nata l'idea, o in generale lei avverte un senso comune diffuso nell'opinione pubblica che è proprio il caso di intervenire, di lavorare in questa direzione? Ma guardi, ovviamente l'idea, se vuole, o comunque la consapevolezza nasce da far parte di un evento, quindi di rendersene conto in maniera diretta con l'esperienza che chi uccide per la strada praticamente non è sottoposto a nessuna pena. Questa è l'impressione generale, poi in realtà qualche pena si applica. È un discorso di proporzionalità, nel senso che nel nostro codice essenzialmente se una persona uccide è sotto droga o sotto l'effetto di alcol, ha esattamente la stessa pena di una persona che ruba un portafoglio in un autobus. Quindi questo è l'equivalenza che esiste. Quindi quello che succede sono pene minime significano pene generalmente sotto i 3 anni, e sotto i 3 anni non c'è nessuna misura cautelare. Questo come mai, secondo lei? Perché ancora, diciamo, il legislatore non si è aggiornato sul fatto che le persone facciano uso abbastanza costante e diffuso di droghe, o ci sia un allentamento della tenuta individuale nei confronti della sicurezza stradale? Una volta guidavano meno persone, quelli che guidavano erano più coscienti. Questo potrebbe essere. Allora io credo che in generale, ovviamente non parliamo solo di droghe, ma comunque di alcol e droghe, ma anche di comportamenti scorretti alla guida. No, parliamo in generale anche di droghe, ormai diciamo i consumatori di cocaina sono una percentuale molto elevata a tutte le ore del giorno e in tutte le fasce sociali. Basta guardare gli occhi delle persone che molte volte ai semafori ti guardano male per capire che non è soltanto rabbia indotta. No, è chiaro. Ma le dico, secondo me le cause sono molteplici. Uno, che il nostro codice è molto lento nel cambiamento, quindi non ci si rende conto dei passaggi sociali. Adesso si muore molto di più in macchina rispetto a quanto si muore in macchina, in auto, i pedoni, in bicicletta, rispetto a quanto magari succedeva negli anni 40, negli anni 50, e quindi il nostro codice non si evolve in maniera così rapida. Poi c'è un sentimento generale, direi, proprio per dovuto anche al fatto che il nostro codice non si evolve, da parte della magistratura e da parte degli uomini di legge, molti di loro, che diciamo uccidere in macchina poi non è una cosa così grave, insomma non è un fatto così grave, e c'è questo aspetto dell'incidente, della colpa. Diciamo la casualità viene portata come elemento determinante. Esatto, non l'ha fatta apposta. Beh, non l'ha fatta apposta. Comunque, voglio dire, se uno beve, se uno si droga, oppure se uno va a 3 o 4 volte il limite di velocità, un pochino apposta l'ha fatta. Come andare in giro con una carica esplosiva addosso. Ecco. Esattamente, quindi questo, diciamo, elemento, questo profilo soggettivo che nel nostro codice è molto forte, e poi in realtà deve bilanciarsi anche col danno effettivo che fai, perché l'uccisione di un ragazzo di 17 anni, di 14, di 20, insomma quello che succede sulle strade è enorme, e si sa consapevolmente quando ci si mette in macchina che bisogna rispettare le regole. Quindi voi avete fatto questo tipo di proposta? Sì, sostanzialmente la proposta l'abbiamo fatta, c'è un sentimento generale, quindi le persone, non soltanto quelle colpite dal dramma, ma più di 60.000 persone, quasi 60.000 persone ci hanno seguito, e la proposta essenzialmente è questa, cioè su 4 punti, il discorso di cambiargli nome, cioè di spostare la fattispecie da colposo a stradale, questo fa sì che i giudici diano più attenzione. Quindi introdurre proprio una nuova forma di reato, profilarlo come omicidio stradale, si chiama. Omicidio stradale. Poi alzare la pena, soprattutto la minima, portarla a 8 anni, quindi fare in modo che ci sia almeno, noi diciamo almeno un giorno di carcere, perché queste persone devono rendersi conto di quello che hanno fatto. Inserire l'arresto in flagranza di reato, in flagranza di ferita, comunque perché si arresta per un furto, non vedo perché non si debba arrestare per un omicidio. E poi quello che abbiamo chiamato l'ergastolo della patente, cioè chi uccide in questo modo con la macchina mai più deve avere la patente. Allora, fermiamoci solo un istante, perché prego. Voglio dare un po' di respiro e cercare di capire qual è lo statu quo, cosa oggi accade. Abbiamo qui in studio la dottoressa Renata Petracca, buongiorno, che è tenente colonnello della Polizia Locale di Roma Capitale, si occupa di ricognizione aerea, infomobilità e centrale operativa. Dottoressa Petracca, ha sentito quello che ha detto il rappresentante dell'associazione Lorenzo Guarnieri? Immagino Lorenzo Guarnieri è il figlio che è stato ucciso in un incidente stradale, per questo nasce emotivamente ipercomprensibile l'idea di fare una raccolta di firme. Dal punto di vista vostro, che siete gli operatori poi stando sulla strada, come ci si comporta ora? Cosa accade? Le pongo la situazione in termini molto schematici. Lei si trova nelle condizioni di assistere alla fragranza di un incidente stradale in cui c'è stato il morto, ha davanti da lei il guidatore. Cosa fa in quel momento esattamente l'operatore? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Quello che evidenziava il Stefano il Guarnieri. Signor Stefano Guarnieri, in effetti è vero, quello che a noi manca al momento è lo strumento. Lo strumento, perché intanto si fa un riferimento a quella che è la normativa legislativa. Noi davanti a, chiamiamola così, una strage dove a causa di un comportamento avviene un incidente stradale, magari un SUV che investe una famiglia di quattro persone, uccide o provoca lesioni gravissime ai componenti di questa famiglia, un investimento su un passaggio praticamente pedonale, noi non possiamo arrestarlo sul posto se non davanti all'applicazione dell'articolo 189 del codice della strada. Cioè, per noi ci consente questa azione penale solo e esclusivamente davanti a un'omissione di soccorso, il che vuol dire effettivamente ha ragione, cioè tutte le persone colpite da una situazione del genere, purtroppo noi non possiamo procedere. Strafatto sul sedile, palesemente ubriaco, no, fatto di cocaina. No, si fanno quelli gli accertamenti, si manda in ospedale, ma non abbiamo l'opportunità, non abbiamo l'azione penale forte dell'arresto in flagranza, perché il codice attualmente non lo consente, perché come stavo appunto dicendo prima, al momento l'unica situazione applicabile è appunto l'omicidio colposo. Noi dovremmo entrare, quello che la proposta giustamente si vuole mettere il puntino, è quello dell'elemento psicologico, cioè noi dobbiamo agire su quello. Non è più un reato da considerare colposo, cioè accidentale, ma agire sull'elemento psicologico e andare nella sfera del dolo. Cioè un omicidio doloso. Ma accertarlo sul momento, solo se in condizioni palese alterazione? Intanto la giurisprudenza al momento non ci consente questo. Noi agiamo sempre sulla scorta dell'omicidio colposo e in più gli diamo tutte le generiche, praticamente, che sono, se si applica in più come aggravante l'articolo 186, il 186 bis oppure il 187 in base alla persona. Allora, la misurazione dell'alcol è quello uno strumento, oppure attraverso l'analisi quello è lo strumento se è soggetto a uso di alcol o di droghe o sostanze, altre sostanze stupefacenti. Si fanno i rilievi per quanto riguarda la velocità, si fa tutta una serie di cose. Al momento il provvedimento reale, però le manette non gliele potete mettere, non gliele possiamo mettere, non lo possiamo portare, come si dice, in caserma, non lo possiamo arrestare, perché il reato di omicidio colposo ancora non prevede l'arresto in flagranza. Se invece questa persona si dà alla fuga, omissione di soccorso, vengono accertati da una serie di indizi, di cose, allora in quel caso possiamo noi adempiere a quello che è l'arresto. Allora, avvocato Gianmarco Cesari, buongiorno. Buongiorno. Lei è avvocato dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, e anche voi avete un sito www.vittimestrada.org. Nella casistica appunto delle persone di cui lei si è occupata, risulta palese questa incongruenza rispetto al fatto che una persona che compie all'occhio di tutti un reato, guidando in condizioni alterate o compiendo delle trasgressioni al codice talmente palesi da poter essere accertate subito, che non possa essere arrestato? Assolutamente sì. Può fare dei casi? Ma guardi, ci sono stati dei gravissimi fatti di incidentalità stradale soprattutto dal 2006-2008 in poi, in cui c'è stato l'arresto, la persona è stata condotta in carcere, ci sono stati quindi dei giudizi. Ma per omissione di soccorso, come diceva il comandante? Per omissione di soccorso, ma anche per diciamo veramente dei delitti efferati, tant'è vero che noi siamo passati... Beh, uno che insegue la moglie con la macchina, la spiaccica al muro, è chiaro che... C'è stato anche chi ha ucciso la suocera schiacciandola a Teramo con la macchina, per cui si è affermato proprio anche in questo la sussistenza. In quel caso la macchina equivale a un'arma. Del reato volontario, no, ma diciamo che i processi che hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sono quelli in cui è stato contestato il dolo eventuale e non l'omicidio colposo semplice. Mi riferisco soprattutto al caso dei fidanzati di Via Nomentana. Ecco, questo lo spiega, che è un caso tipico. Sì, esatto. Lì non c'era alterazione, c'era un ragazzo che aveva avuto una lite con la fidanzata, era stato lasciato, sì. E come fanno i quattoni romani, mo te faccio vedere, e si è buttata a tutta velocità per spaventarla. Esatto. Lo spieghi in maniera più dettagliata che lo questo è un caso riassumo. Che ha indignato tutta la città di Roma e anche la nazione, perché questa persona che non aveva la patente da oltre 2 anni che gli era stata ritirata, guidava normalmente per le strade di Roma, siccome la ragazza lo voleva lasciare, lui da Trastevere, dopo averla picchiata, l'ha messa in macchina e ha cominciato a correre a una velocità superiore al limite, al doppio del limite consentito, a 90 km orari in pieno centro, parte da Porta Pia, attraversa 2 semafori rossi e incrocia sulla propria traiettoria questi 2 ragazzi, 2 giovani universitari in motorino, Alessia e Flaminia. Scappa, fugge dopo essersi reso conto del fatto dello scontro mortale, perché dice alla ragazza: oddio, li ho ammazzati. Prosegue fino a mettere la macchina, una Mercedes, da un carrozziere su Via Nomentana e si nasconde. Un passante vede questa macchina di cui era stata diramata la notizia di questo gravissimo scontro mortale, denuncia la Guardia di Finanza, viene portato e la persona viene arrestata. Da lì il processo penale, in cui in abbreviato vengono dati 10 anni, a cui ho partecipato personalmente anche come associazione che ci siamo costituiti parte civile quale associazione di promozione sociale, subito dopo però nel processo d'appello questi 10 anni per l'omicidio con il dolo eventuale vengono dimezzati a 5 anni, perché viene ritenuta sussistente non il dolo ma la colpa, cioè non il dolo eventuale, non la volontà di terrorizzare la persona correndo e quindi l'accettazione dell'alta probabilità di rischio di investire. Questo perché non esiste uno strumento certo per condannarlo. È chiaro che su una fattispecie così fumosa, in cui mi sembra che l'omissione di soccorso sia l'unico appiglio concreto e reale per condannarlo, gli avvocati poi hanno un grande margine di operazione per dire che era un bravo ragazzo, che non era così. Esatto, proprio di fronte a questa non c'è niente di certo. Mancata previsione normativa che disponga una pena specifica più grave dell'omicidio colposo, in cui la morte di una o più persone sia da ricondurre causalmente a una guida aggressiva, azzardata e temeraria, lanciamo un appello ai parlamentari insieme ai genitori di questi ragazzi, lamentando proprio il disvalore sociale di queste condotte di guida dei pirati della strada, anche proprio in relazione a interpretazioni soggettive altalenanti dell'elemento soggettivo del reato tra dolo eventuale e colpa cosciente da parte dell'autorità giudiziaria. Allora, fermiamoci solo un secondo, avvocato, volevo introdurre, visto che stamattina ho voluto portare molti ospiti perché è una materia delicata, bisogna parlarne con cognizione di causa, non può essere affidata semplicemente all'impatto emotivo. Riccardo Alemanno, buongiorno. Buongiorno a direttore tutti. Dell'ACI di Roma. Buongiorno a tutti, Gianluca, allora, e agli ascoltatori. Vediamo un po' se possiamo anche chiarire un po' la posizione di chi si occupa appunto degli automobilisti in maniera specifica. C'è veramente una sorta di escalation nel senso di responsabilità di chi guida un'automobile, per cui è necessario a questo punto introdurre uno strumento più rigido? Hai la percezione, la sensazione, da quello che è il tuo mestiere, dalle tue osservazioni, dalla tua sensibilità, che in realtà esista una leggerezza eccessiva nei confronti dell'automobile, che è un mezzo sì di trasporto e di fluidificazione del proprio tempo, ma anche una pericolosa arma per poter delinquere in questo caso? Beh, io ritengo che ci sia stato, come diceva Guarnieri, un ormai adeguamento, no, a una rinnovata coscienza sociale. Cioè questi progetti di disegni di legge, progetti di legge poi sono diversi, dimostrano, per me questo è l'aspetto interessante, senza entrare nel dettaglio, delle difficili problematiche di interpretazione giuridica sugli elementi soggettivi, sulla necessità di creare delle fattispecie nuove, quasi oggettive, o se muoversi sul campo delle circostanze. Ma lo stesso agitarsi della giurisprudenza, dei giudici di merito nell'andare ad individuare, oppure per esempio, come diceva il colonnello Petracca, andare a cavillare quasi sul combinato disposto tra due figure criminose per... Occorre anche semplificare la comunicazione su questo, perché sennò la gente si sente presa in giro, certo. È difficile, però dimostrano proprio una riprovazione sociale, come dire, ormai molto forte nei confronti di questo tipo di delitti. Cioè, che uno degli elementi chiave per cui il legislatore dice devo rimettere mano alle norme, perché c'è un sentire generale sociale che dice che ora ci rimetto mano. Quindi ci vuole, quindi esattamente, noi riteniamo, c'è una legge che vale per le auto che si mettono in moto a manovella, non può valere, esatto, più oggi per, esatto, le automobili di oggi. E quindi ecco l'esigenza di una pena effettiva e l'esigenza di considerare il mezzo di trasporto come una, come dire, una arma. Lo possiamo dire, un qualcosa che può uccidere, anzi uccide più degli omicidi, diciamo. Sentiamo un attimo Tommaso, un secondo comandante, poi la faccio parlare. Tommaso, camionista, primo ascoltatore ci chiama. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Il suo punto di vista. Appunto, come detto prima, prevenire è meglio che condannare. Vale a dire, l'azienda dove lavoro io ogni anno mi fa fare l'esame tossicologico. Perché non fare le esami tossicologiche anche agli automobilisti? Beh, tutti gli automobilisti, ci sarebbe, diciamo, un 70% di persone che non potrebbe prendere la macchina, l'automobile. Benissimo, sarebbe non giusto, secondo me. Sì. Punto, non le facciamo prendere. Ha perfettamente ragione. Su questo sono d'accordissimo. Non si può stare in mezzo alla strada con gente che magari devi far attento più a loro che a te stesso, insomma. Cioè, questo è il concetto. Comandante Renata Petracca, trova plausibile la proposta di fare un alcol test o un test tossicologico come screening generale e periodico a tutti gli automobilisti? Beh, diventa veramente effettivamente molto difficile e complicato, però devo dire anche questo, che oggettivamente i controlli su strada è la strada giusta per la prevenzione. Una battuta che volevo fare prima in merito a quanto aveva detto l'avvocato Gianmarco e anche a quello che ha detto il direttore, il dottor Alemanno, è che oggi come oggi addirittura noi ci troviamo davanti a un paradosso, cioè l'investimento è quasi un omicidio perfetto. Quello ho detto prima, è una vulgata siamo molto arrivati, radicale. Siamo arrivati all'identificazione del delitto perfetto. Volendo, oggi il serial killer perfetto non dovrebbe prendere un Kalashnikov o un bazooka, ma basterebbe che prendesse una qualsiasi utilitaria. Basta un investimento oggi per risolvere un problema. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, entro subito in merito alla trasmissione che stiamo facendo, parlando se in realtà non sia venuto il momento, di questo stiamo discutendo, di rivedere il nostro ordinamento e configurare un nuovo tipo di reato, che è l'omicidio compiuto attraverso un mezzo automobilistico. Come abbiamo sentito dalle nostre testimonianze, dei nostri ospiti, non ci sono strumenti necessari per reprimere o per creare un deterrente per chi uccide con l'automobile. Chi uccide con l'automobile in stato di sottoposto a, diciamo, azioni stupefacenti o in stato di ebbrezza o in alto tasso etilico, in realtà rischia pochissimo, non rischia quasi nulla, sa che ha l'impunità, e questo comporta che ci sia una totale distrazione. Abbiamo iniziato la trasmissione parlando con Stefano Guarnieri, che ricordo è fondatore dell'associazione Lorenzo Guarnieri, che ha promosso una raccolta di quasi 60.000 firme appunto per una proposta di legge popolare sull'introduzione del reato di omicidio stradale. Stefano Guarnieri, è ancora in linea? Sì, sì, sono in linea. Ecco, vediamo di capire un po' anche dal vostro punto di vista, magari citando qualche esempio, qual è il senso profondo poi quando questi processi raggiungono il loro esito, si vede che la persona, ma non per colpa generale, perché non c'è proprio lo strumento, se la cava con una pena irrisoria, ma anche dal punto di vista poi patrimoniale, il danno patrimoniale esiste, ammesso che sia una forma di risarcimento, non è mai un risarcimento, ma esiste una possibilità anche di rivalersi su un piano patrimoniale rispetto a chi compie un reato del genere? Ma guardi, discorso da un punto di vista patrimoniale è complesso, ma quello che è importante dire su questo, ad esempio, è che chi uccide l'assicurazione lo copre completamente, quindi poi alla fine lui non ha quasi nessun danno, né patrimoniale né diciamo morale da un punto di vista di detenzione, quindi la persona alla fine non compie niente. Questo perché le assicurazioni, anche se potrebbe esistere il diritto di rivalsa, spesso preferiscono prendere qualche soldo prima, giustamente, rispetto a, alzando le polizze, rispetto ad avere il diritto di rivalsa nei confronti di queste persone che poi, dato che i nostri processi civili durano 10-15 anni, non è conveniente, riescono poi a alienare tutti i beni che hanno e quindi formalmente non riescono poi a prendere niente. Quindi nella sostanza a queste persone non accade assolutamente niente. Molte volte ci sono stati vari casi in cui uno zingaro uccide persone in macchina, poi chi si rivalde contro cosa? Sì, no, poi c'è cito episodi recenti. Certo, ovviamente in questo caso c'è il fondo vittime della strada che può coprire, e quindi diciamo un qualche cosa da un punto di vista patrimoniale poi le persone nella soggettiva di chi compie il reato è un'altra forma di deterrente in meno, non solo non vado in galera ma anche devo cacciare i soldi. Esatto, no, questo non accade, e questo le posso dire che non accade. Non accade poi che queste persone, questo fa parte ovviamente del nostro, della nostra modalità del codice di procedura penale, queste persone non si presentano mai, cioè io l'assassino di mio figlio non l'ho mai visto, insomma, in nessun grado di giudizio, quindi queste persone sono sempre non si è nemmeno mai presentato, non si presentano mai perché la nostra legislazione ovviamente dà la possibilità di essere giudicato contumace, quindi alla fine non c'è nemmeno un'esposizione, cioè nemmeno questo deterrente della pubblica esposizione sul banco degli imputati, esposizione perché gli viene permesso e nessuno se lo fila nella sostanza da un punto di vista giudiziario. Scusi, quindi uno può affidare all'avvocato la sua causa e poi vivere tranquillamente per il resto dei suoi giorni. Abbiamo al telefono Fabio. Buongiorno Fabio. Buongiorno, vi ringrazio per l'opportunità che mi date di raccontare la mia storia, che è una storia un po' particolare, perché nel 2008 mi è successo di fare un incidente stradale, era una sera, è stato un incidente mortale purtroppo per la controparte. L'unica particolarità è che la controparte, la parte offesa, aveva il tasso alcolemico più del doppio del limite consentito. Cioè di lei, legge. Non ho capito bene, lei guidava l'automobile? Io guidavo l'automobile insieme a due amici, procedevo nella mia carreggiata a una velocità al di sotto del limite consentito, era i 50 su una strada che consentiva i 70. Mi sono visto arrivare una macchina contromano che mi è venuta addosso, il ragazzo dove era questa macchina è morto, le analisi hanno constatato che aveva un tasso alcolico più del doppio, quindi era strafatto, in contromano e una velocità di 40 km orari superiore il limite consentito. E come è andata a finire? È andata a finire che io sono accusato di omicidio colposo. Il primo grado è stato due perizie a mio favore, anche la perizia del PM era una perizia che traballava. Il primo grado sono stato assolto perché il reato non sussiste, non mi sono presentato, sono stato in contumacia visto che sottolineavate questa possibilità. E morale della favola qual è? Sto aspettando l'appello, hanno fatto appello, hanno richiesto l'appello. La mia colpa è stata quella di non sterzare a destra, ma per evitare questa macchina in contromano ho sterzato a sinistra. Il codice della strada dice di mantenere la destra, peccato che sulla destra c'era un fosso, io avevo due persone in macchina e nonostante la testimonianza di queste due persone, nonostante la testimonianza di due automobilisti che si sono fermati e hanno visto l'impatto, mi sono visto recapitare tutte le varie lettere, il PM ha chiesto un anno di reclusione e tenendo conto che eventualmente c'è anche una pena accessoria del ritiro della patente, io sono national account, viaggio per tutta Italia, se mi dovessero anche levare la patente io sarei messo abbastanza male, tenendo anche ulteriormente in considerazione tutte le spese che ho, che che non mi verranno mai rimborsate. Io sto passando dalla parte delle colpe e non ho, io dico, non ho nessuna tutela né dallo Stato né da parte di allora, fermiamoci un attimo, Fabio. Avvocato Gianmarco Cesari, sì. Questo mi sembra un motivo in più nel suo paradosso per accelerare l'idea che forse è il caso di mettere le mani su una legge. Guardi, assolutamente sì, a parte che dopo quell'appello lanciato ai parlamentari noi abbiamo una proposta di legge che è la 3274 che giace alla Camera dei Deputati, che addirittura non è stata neanche riunita alle 46 proposte di legge che adesso stanno non esaminando l'intervento legislativo per creare una norma sull'omicidio stradale o riformare comunque il codice penale. Ma leggo una dichiarazione del ministro Corrado Passera per cui dice che entro l'estate ci sarà una legge. Il problema è che ogni giorno muoiono 11 persone, abbiamo circa 800 feriti, quindi noi abbiamo vista questa inerzia parlamentare nell'intervenire anche nei confronti dei pirati della strada che omettono il soccorso. Allora abbiamo richiesto un decreto legge, noi abbiamo richiesto un decreto legge che può essere presentato dal Consiglio dei Ministri ed essere immediatamente efficace, una volta firmato dal Presidente della Repubblica. Ma lei si è fatto un'idea, secondo lei, perché non, è, sì. non c'è un'immediata sensibilità nei confronti di questo problema? È chiaro, possiamo crogiolarci nel luogo comune più trito, tutto va lento, siamo in Italia, siamo italiani, ma in particolare qua mi sembra ci siano tutte le maniere per poter agire. Assolutamente nessuno sì. protesterebbe, secondo me, forse chi produce automobili magari avrebbe qualcosa da dire, forse. Non solo, risparmieremo anche 30 miliardi di euro l'anno, 30 miliardi di euro l'anno, che è il costo delle vittime della strada sul servizio sanitario nazionale. Ma può farmi qualche esempio in altri paesi, fermiamoci alla comunità europea, come si comportano in questo caso? Abbiamo una fermezza e un rigore assoluto nei confronti della criminalità stradale in tantissimi paesi d'Europa, voglio citare l'Inghilterra, voglio citare la Germania, in Spagna addirittura c'è proprio una norma che prevede la guida azzardata e temeraria, separandola dall'omicidio colposo. Chiunque guida in misura azzardata e temeraria, dice la norma spagnola, ha una pena che addirittura è elevatissima. Non solo, in Inghilterra è previsto l'arresto obbligatorio, quindi se una persona viene sorpresa a guidare in stato di alterazione psicofisica o guida in maniera pericolosa, dissennata, viene fermata e viene arrestata e portata in carcere. Noi abbiamo invece la riduzione alla semplice colpa di condotte di guida azzardate, temerarie, aggressive e dissennate, il che porta proprio alla necessità di un intervento legislativo urgente, prevedendo una forma proprio di imputazione soggettiva, perché quello che succede in Italia è che il criminale stradale va a beneficiare di tutta una serie di sconti di pena che si sommano. Quando noi pensiamo alla pena altissima... In battuta, perché ci sono questi sconti pena secondo lei? C'è una cattiva coscienza generalizzata anche da parte di chi giudica? Ne ho fatti centinaia di processi per omicidio stradale e le posso dire che c'è un buonismo generale, si favorisce sempre l'imputato, si guarda pochissimo e con scarsa attenzione alla vittima, che si pensa che debba solo ottenere il risarcimento, quando invece la vittima... Qual è la media di condanne? La media di condanne in percentuale in questo processo? Allora guarda, siamo passati dai 3 mesi, 6 mesi, che era la media prima del 2001, perché chi uccideva per strada si prendeva solo 3 mesi, 6 mesi con la condizionale, quasi in maniera scontata ed automatica. Siamo passati solo nel 2003 a pene al di sopra dei 2 anni. La prima condanna che c'è stata significativa è stata a Lanciano per una strage di uno che con un furgone è entrato dentro un bar e ha ucciso 2 ragazzi e ne ha reso uno parte tetraplegico, che fu di 2 anni e 8 mesi. Parliamo di Lanciano, strage di Guarenna del 2002. Sì, che poi sono condanne che non si concretizzano mai in una reale detenzione, chiaro. Poi siamo andati con la strage di Appignano a 6 anni, con Bodak che uccise Salvatore Anfano. Quello che citavo prima, infatti. Bodak è stato il primo caso in cui una persona ha ottenuto 8 anni e mezzo per aver ucciso questa ragazza e reso in maniera irrimediabile la fidanzata, 8 anni e mezzo, pena confermata in appello e in Cassazione per omicidio colposo. E poi c'è stato l'omicidio Lucidi che ha fatto storia. E poi la condanna. Però, avvocato, ci fermiamo un attimo, sì. Sennò mi tagliano. Devo dare le informazioni del traffico. Proprio in questo caso mi sembrano opportune. Melog. La realtà condivisa. Velocemente, ascoltatore Gabriele, buongiorno. Sì, Buongiorno, signor. Esprima in sintesi il suo pensiero. Sì, io ritengo che la paura della punizione non migliorerà le cose, cioè non è accaduto con la pena di morte, non accade nei paesi dove c'è la pena di morte, insomma, ridurre i crimini, quindi... Figuriamoci se uno poi si pone il problema. Figuriamoci per strada, esatto. Io poi ritengo che definire come non colposo l'omicidio stradale sia molto, molto difficile, cioè di pensare che uno volontario, anche se ubriaco, che abbia l'intenzione di uccidere, non credo. Sono molto d'accordo invece con l'ergastolo della patente o comunque con l'inasprimento del ritiro, ma non come deterrente per le cose, ma per salvaguardia degli altri utenti della strada. Quindi lei è garantista nei confronti di chi in buona fede usa tutte le cautele, ma può capitare un momento di distrazione, un errore, tutti guidiamo e tutti sappiamo che esattamente può accadere questo. Sì, un po' sicuramente è questo. Poi, cioè, secondo me è l'educazione ed esempio quello che ci vuole, non tanto questa cosa qua. Esatto. E poi soprattutto la cosa che cioè io sull'ergastolo della patente sono d'accordo, e soprattutto sulla guida pericolosa come è configurata in Inghilterra. Caro Gabriele, proprio con Riccardo Alemanno, direttore dell'ACI, che viene spesso nelle nostre trasmissioni, noi poco tempo fa, più volte abbiamo fatto trasmissione sull'abuso delle macchinine negli studenti liceali, quando dei genitori ti danno già in mano un'automobilina che in realtà con poche modifiche funziona e ha lo stesso impatto di un'automobile senza avere i sistemi di sicurezza, e dicono vai tranquillo, vai sicuro perché sei un figo e via dicendo, il fatto delle sensibilizzazione dell'opinione pubblica è un po' difficile. Noi partiamo da una cultura che dovrebbe avere radici molto più profonde rispetto a questo. Comandante Renata Petracca, ricordo che è tenente colonnello della Polizia Locale a Roma Capitale e si occupa di ricognizione aerea, infomobilità e centrale operativa. Il problema che pone l'ascoltatore ci obbliga comunque di fare anche una riflessione. Quanto in questa proposta che sta generalmente portando avanti sia l'Associazione delle Vittime della Strada sia a livello istituzionale, ho ricordato che il ministro Passera ha promesso che non è più attuale la sostanziale impunità di chi uccide mettendosi a guida ubriaco e drogato. Questa legge può avere un senso preventivo di deterrente o semplicemente di senso vendicativo, di risarcimento nei confronti di chi ha subito il crimine in una persona cara? No. Allora, intanto deve essere preventivo e deterrente. Il fatto che accadono certi fenomeni sociali è purtroppo perché ormai è insita in noi la convinzione che c'è l'impunità della pena, e questo purtroppo accade a tutti i livelli. Scusate. Quello che volevo un attimo quindi dire... Quindi funzionerebbe mettere un deterrente che si certo, rischia di più? Avrebbe certo, un senso. Certo, non solo. Ma quello che noi poi dobbiamo fare in concomitanza è proprio l'aumento dei controlli. Per quanto riguarda il discorso dell'ergastolo della patente... Ci sono delle situazioni che purtroppo ne stiamo prendendo coscienza adesso, perché poi sappiamo che la società è sempre più avanti e i loro comportamenti sono sempre più avanti a quelli che sono poi i fenomeni legislativi di controllo e la presa di coscienza di quello che accade. Basta andare, chi è stata ritirata la patente, basta che vada a Malta e spende 1000 euro e gli viene rilasciata una patente nuova, valida per circolare in Italia. Allora, insieme a tutto questo va bene l'ergastolo della patente, ma noi dobbiamo avere poi una forma di comunicazione e di controllo che tutto ciò che in tutta Europa queste persone non devono più essere in possesso di patente, non possono essere più rilasciate in nessun modo. Riccardo Alemanno, direttore dell'ACI di Roma, è stato toccato il problema generale della cultura stradale. Sei d'accordo che pari passo all'adeguamento delle leggi deve esserci un adeguamento anche della coscienza di chi guida? Non vogliono essere parole vuote, retoriche, ma in concreto. No, guarda, non vogliamo essere retorici. Mi è piaciuto anche l'intervento di Gabriele, dell'ascoltatore. Cioè, da un lato, insomma, l'applicazione delle norme deve essere rapida, certa, e ha il suo effetto deterrente, e si devono anche... Sei convinto che servirebbe, sì. Certamente, l'Automobile Club d'Italia, il nostro Automobile Club, ha sostenuto sin dall'inizio l'omicidio stradale, anche perché, insomma, ripeto, la circostanza non deve attenuare non deve fungere, diciamo, da attenuante nei confronti dell'omicidio. Trovi giusto il principio che chi la mattina esce di casa alla guida di un'automobile deve avere la stessa coscienza di chi abbia un porto di pistola, che esce con l'arma che gli è stata lecitamente affidata perché fa parte della sua sicurezza. Esattamente, come se avesse un debito nei confronti, diciamo, degli utenti della strada che andrà ad incontrare, come se avesse un'arma. Quindi è una coscienza superiore che gli si richiede. Però al tempo stesso, e quindi qui è una battuta, l'ho sempre detto, bisogna agire anche preventivamente, è chiaro, con una formazione, ricordando per esempio che quando si ha il tasso alcolemico 1,5 grammi litro si hanno 388 volte superiori il rischio di provocare incidenti gravi. E questo è invece un'altra azione di tipo formativo preventivo. Ecco. Grazie ai miei ospiti, grazie a quelli che hanno partecipato. Il problema è aperto e ci ritorneremo quando avremo qualche novità dal punto di vista di chi deve pensare, fare e predisporre per le leggi. A lunedì.